La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla storia demografica del nostro paese degli ultimi 50 anni. Ospite ai nostri microfoni Antonio Golini, docente di demografia all'Università La Sapienza di Roma. Nella seconda parte vi proponiamo un radiodocumentario sulla storia del massacro di un gruppo di paracadutisti americani e di civili francesi a Graignes durante il D-Day. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel lunedì 11 maggio alle 16.05. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. La notizia è di qualche giorno fa, e l'ha comunicata l'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica. La popolazione residente in Italia ha superato, grazie alla presenza degli stranieri, la soglia dei 60 milioni. 50 anni fa, era il 1959, eravamo 50 milioni. Dunque, in questi ultimi 50 anni, la popolazione che risiede nel nostro paese è cresciuta di 10 milioni di persone. Per la precisione, abbiamo raggiunto quota 60.017.677 unità. Senza gli stranieri la popolazione residente non supererebbe i 55 milioni. Il contributo della popolazione straniera dunque risulta determinante. Gli immigrati ammontano infatti a oltre 4 milioni e mezzo e la tendenza pare destinata a crescere nel futuro, cifre che attestano senza ombra di dubbio delle profonde trasformazioni che sono intervenute negli ultimi 50 anni nel nostro paese. Ora siamo in piena recessione. Allora, nel 1959, l'Italia conosceva la sua fase di sviluppo più impetuosa del dopoguerra. Era il 1959, 50 anni fa, quando in Italia esplose il boom. Il quotidiano inglese Daily Mail pubblicò una corrispondenza da Roma in cui registrava con sorpresa la crescita e i successi dell'economia italiana. Il livello di efficienza e prosperità del potenziale produttivo dell'Italia, si leggeva nell'articolo, costituisce uno dei miracoli economici del continente europeo. Dopo la fase della ricostruzione post-bellica negli anni tra il 1946 e il 1948 e il decennio dell'accumulazione di capitale, gli italiani conoscevano il benessere e il consumismo, la forza delle esportazioni, il fiorire della piccola impresa, le trasmigrazioni dal sud al nord, approdando al neocapitalismo. Era il boom, il miracolo economico caratterizzato da una forte espansione dei consumi e della domanda interna. Dal 1959 al 1963 le famiglie in possesso di un frigorifero passano dal 13 al 55%, quelle provviste di apparecchi televisivi dal 12 al 49%. L'Italia del miracolo è fatta di operai che si costruiscono la casa con le proprie mani, ma anche che comprano la 600 o la 500 firmando cambiali, diventando così protagonisti di una esplosiva motorizzazione. Si triplica il numero di automobili in circolazione. Per auto, in rapporto al numero di abitanti, si passa da 1 ogni 24 italiani a 1 ogni 11 italiani. Gira più denaro, con aumenti dei salari che sfiorano il 5-6%. La popolazione cresce e raggiunge appunto i 50 milioni. Ma il profondo mutamento intervenuto nella società italiana era partito in realtà già negli anni precedenti. Negli ultimi 60 anni il nostro paese ha vissuto esperienze di radicale cambiamento nella vita economica, sociale e politica. Da una società agricola sostanzialmente povera si è passati a una società post-industriale avanzata. Su questo sfondo la popolazione italiana si è modificata nella struttura, nelle abitudini e nei comportamenti. Netto calo della natalità, progressivo invecchiamento della popolazione e aumento dei flussi immigratori. Le vicende demografiche seguono l'evolversi delle trasformazioni politiche ed economiche. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Andava a 100 all'ora per cantare la serenata. Blam, blam, blam, blam. Abbiamo in linea il professor Antonio Golini, che è docente di demografia all'Università La Sapienza di Roma. Ci aiuti, professore, a leggere i dati dell'Istat. Che Italia era 50 anni fa, quando eravamo 50 milioni, e che Italia è oggi, che siamo 60 milioni, anche grazie alla, diciamo, al numero degli immigrati? Sì, non anche grazie al numero degli immigrati, ma soltanto grazie al numero degli immigrati. E la fecondità in Italia è scesa moltissimo, cioè il numero medio di figli per donna o per coppia è sceso moltissimo, è sceso da 2,3 figli in media dei primi anni 60 a 1,3 dell'epoca nostra. Ora mi sembra abbastanza evidente che se una coppia procrea in media due figli, la popolazione resta quella che è, perché evidentemente i due figli vanno a sostituire nel ciclo delle generazioni i due genitori. Ma se, come ormai da vari decenni, le coppie italiane hanno in media 1,1-1,3 figli, è evidente che questo 1,1-1,3 è ben lontano dal sostituire nel ciclo delle generazioni i due figli. E quindi, se non fossero arrivati 400-500 mila immigrati all'anno, come è successo negli ultimi 7-10 anni, la popolazione non sarebbe cresciuta, anzi sarebbe diminuita, come ci aspettiamo che avvenga fra 20-30 anni. Quindi i 60 milioni sono tutto e solo il frutto, stavo per dire il merito, diciamo più neutralmente il frutto degli immigrati stranieri. Quello che lei dice tra l'altro induce anche a una riflessione più approfondita e diversa rispetto a quella che ci viene proposta anche sul contributo degli immigrati nel nostro paese. Professore, quali effetti dal punto di vista sociale possono essere, diciamo, registrati alla luce di queste trasformazioni che lei ci ha ora esposto? Cominciamo a chiarire che l'immigrazione straniera in Italia è necessaria e conveniente, non c'è ombra di dubbio su questo. Nel 1964 le nascite in Italia sono state un po' più di 1 milione, adesso sono 500-550 mila. Ora è evidente che se i nati del 64, che attualmente hanno 45 anni, che erano 1 milione, sono sostituiti da 500 mila dei nati degli anni successivi, si viene a creare un buco formidabile nelle forze di lavoro, per esempio, e quindi questo buco deve essere riempito pena il tracollo del sistema produttivo italiano. Certo, potrebbe essere compensato anche da un aumento della produttività, da un aumento dei tassi di attività, ma il modo più semplice e più immediato di riempire il buco, fra virgolette, che si è venuto ad avere per effetto del dimezzamento delle varie generazioni è evidente quello degli immigrati. Ora, gli immigrati non sono però barili di petrolio, sono persone e quindi evidentemente devono essere accolte come persone, e anche le vicende di questi ultimi giorni, da quelle di Malta a quelle del nostro Parlamento, dimostrano come sia complicato, complesso accogliere come necessario gli immigrati come persone. Allora, questo vuol dire che dal punto di vista economico l'integrazione degli immigrati è relativamente immediata e relativamente facile, ma poi la vita si complica quando dobbiamo pensare a questi immigrati anche come persone che hanno bisogno, tutti, sia quelli regolari sia quelli irregolari e clandestini, di una casa, di un posto dove abitare. È evidente che non possono abitare sotto i ponti, come invece purtroppo succede. E così come i figli degli immigrati hanno bisogno di posti a scuola, certo, e così via. E poi c'è un altro aspetto ancora, che è quello sociale, psicologico, culturale. Hanno la loro cultura, la loro psicologia, i loro comportamenti, i loro atteggiamenti, e queste caratteristiche di queste persone si devono combinare con le nostre caratteristiche per evitare conflitti, e quindi ci vuole tempo perché le abitudini degli altri vengano piano piano assimilate con le nostre abitudini. Ecco, in questa diversità del considerare gli immigrati come persone, quindi negli aspetti economici, negli aspetti quelli che io chiamo logisti, e soprattutto case, scuole e ospedali, e gli aspetti psicologico-culturali, sta la difficoltà di integrare, di accettare, di convivere con 400-500 mila immigrati l'anno. Dicevo all'inizio che gli immigrati sono necessari e convenienti, ma forse 400-500 mila all'anno eccedono la capacità della società italiana di accoglierli come dovrebbe. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera è dedicato alle imprese del 507° Reggimento di Fanteria Paracadutista dell'Esercito Americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel lunedì 11 maggio alle 16.05. Nel 1940 la Francia è invasa dalla Germania. L'occupazione tedesca è brutale. La benzina e il cibo sono razionati. 4 anni dopo, i francesi non aspettano altro che la liberazione. Durante il D-Day, le unità aviotrasportate sono le prime a entrare in azione in Normandia. Il 5 giugno, il 507° Reggimento si prepara all'invasione. La squadra di esploratori si lancia per prima per segnalare la zona d'atterraggio con delle luci. Tra l'82esima divisione aviotrasportata e la 101esima, i soldati che si lanciano sono 13.000. Da soli, i 2.000 soldati del 507° riempiono 117 aerei. John Inchliffe, veterano del 507° Reggimento di Fanteria Paracadutista. Mi ricordo un fascio di luce molto forte, poi gli aerei hanno fatto una virata di 45 gradi e sono tornati sopra la penisola della Normandia. Una contraerea nemica ci aveva attaccati. Colonnello Frank Norton, veterano del 507° Reggimento. Subito dopo siamo finiti in un banco di nebbia. Quando riemergono dal banco di nebbia, gli aerei che trasportano il 507° Reggimento sono tutti sparsi. In meno di 30 secondi un gruppo di 16 soldati, chiamati gli Styx, si lancia dall'aereo. La maggior parte dei C-47 lancia i paracadutisti a nord di Carentan. 10 Styx approdano 40 km più a sud, vicino al villaggio di Gregne. Il reggimento è sparpagliato su 150 km quadrati. I tedeschi sono dappertutto, i cadaveri tantissimi. Molti di quelli che hanno la sfortuna di restare impigliati su alberi o edifici vengono giustiziati. Secondo i servizi segreti, i tedeschi avevano chiuso le dighe di La Barquette per inondare le pianure. L'erba alta, cresciuta al di sopra del livello dell'acqua, inganna gli analisti che stimano che le zone paludose siano profonde solo pochi centimetri. Molti soldati atterrano sui canali che attraversano le paludi. Carichi di equipaggiamento pesante, alcuni restano intrappolati nei paracadute e non possono nuotare liberamente. I soldati sopravvissuti al lancio sono sparpagliati, separati dal comando e a chilometri di distanza dall'obiettivo. L'operazione rischia di fallire. Hanno bisogno d'aiuto. Quando i soldati riescono a uscire dalle paludi, sono bagnati, stanchi e affamati. Per sopravvivere e completare la missione, devono raggrupparsi in fretta. Sembra un'impresa impossibile. Ancora John Inchliffe. I pacchi col materiale logistico erano sprofondati nell'acqua e noi non sapevamo neanche dove ci trovassimo. Vedevamo in lontananza una croce sul tetto di una chiesa. Quindi pensammo fosse un paese su una collinetta e iniziamo ad avanzare in quella direzione. il punto di riferimento verso cui si dirigono i soldati è la guglia della chiesa del XII secolo del villaggio di Gregna, costituito da 200 case. È circondato su tre lati da paludi. Nelle vicinanze sorge una piccola fattoria di proprietà della famiglia Rigaud. Odette Lelave-Chef, figlia della famiglia Rigaud. Era 1:20 di mattina quando il primo parà bussò alla porta. Quando capì di essere nel posto sbagliato, si sentì perduto. Siccome era tutto bagnato, si tolse la divisa e lo zaino e vuotò le tasche. Tirò fuori un pezzo di cioccolata che noi non vedevamo da anni. Era la prima cioccolata americana. Poco prima dell'alba, la famiglia Rigaud sente qualcun altro bussare alla porta e una voce maschile in francese perfetto dice di non avere paura e aprire la porta. È il caporale Benton J. Broussard, del 507° reggimento. Essendo nato in Canada, parla un ottimo francese. Sarebbe stato di grande aiuto nei giorni seguenti. Alle prime luci del giorno, altri gruppi di soldati si fanno strada nella palude per raggiungere il villaggio. Nel pomeriggio a Gregna si contano 182 americani. Hugh Ambrose, storico, Museo Nazionale del D-Day. Per difendere il villaggio di Gregna, i parà dovettero portare a termine alcuni obiettivi. Il primo era stabilire un perimetro per controllare i punti di accesso alla città. Dovevano inoltre assicurarsi rifornimenti di cibo. Ma la cosa più importante era ovviamente recuperare le armi e il materiale perso nelle paludi. Per gli ultimi due obiettivi avevano bisogno dell'aiuto degli abitanti. Il giorno dopo, il 7 giugno, il sindaco convoca tutti i paesani in chiesa. Chiede agli abitanti di Gregna di mettere a disposizione degli americani tutte le risorse del villaggio. Nonostante i rischi, gli abitanti votano all'unanimità di aiutare i paracadutisti. Il sindaco si occupa anche di organizzare il recupero del materiale disperso nelle paludi. Martin Morgan, autore di Down to Earth. Addentrarsi nelle paludi per raccogliere i pacchi di materiale logistico era molto pericoloso per i francesi. Se fossero stati colti dai tedeschi mentre lo facevano, sarebbero stati giustiziati subito. La ricerca è talmente accurata che ben presto gli americani hanno munizioni e armi a sufficienza per difendere il villaggio. Alcune pattuglie di ricognizione cominciarono a notare un sensibile aumento del traffico nemico sulla strada per Carentan. Non ci volle molto perché i tedeschi le scoprissero e aprissero il fuoco. Ancora Hugh Ambrose. Gli scontri a fuoco confermarono ai tedeschi la presenza degli americani a Gregna. Il punto era quanti fossero. Ormai l'attacco tedesco è imminente. Per cominciare, il maggiore Johnson ordina ai guastatori di distruggere il ponte alla Port de Plonk, pochi chilometri a nord di Gregna. È importante. I tedeschi possono usarlo per ritirarsi da Carentan o per attaccare Gregna passando per le paludi. Il tenente Naughton ordina al sergente Frank Costa e al soldato David Tursell di attraversare il ponte e fornire copertura durante il posizionamento degli esplosivi. Ancora il colonnello Frank Naughton. Il caso volle che ci trovassimo di fronte dei soldati tedeschi inesperti. Non so come dire, ma non erano molto svegli perché si esposero troppo. Costa manda Tursell ad avvisare la squadra, poi punta il fucile al nemico. Quando i tedeschi arrivano a 500 metri dal ponte, Costa apre il fuoco. Edward Burns, veterano del 507° reggimento. Il tenente Naughton e io eravamo sulla strada quando iniziamo a sparare. Ma il ponte era curvo, quindi tutti i proiettili finivano in alto. Non colpimmo neanche un tedesco quella volta. Naughton diede l'ordine di far esplodere il ponte. Quando il ponte esplose, pezzi di cemento e metallo cominciarono a cadere. A quel punto capimmo di essere salvi. Il tenente Norton e i suoi uomini hanno portato a termine una missione militare di grande importanza, senza sapere di avere di fronte un'intera divisione dell'esercito tedesco. Ma i paraamericani e i civili francesi stanno per confrontarsi con la potenza del nemico. Il momento della verità è vicino. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario. La collaborazione tra gli abitanti di Graigne e un gruppo di paracadutisti del 507° reggimento statunitense continua, ma l'imponente esercito tedesco sta accerchiando il paese. Domenica 11 giugno 1944 i tedeschi irrompono nella chiesa di Graigne durante la messa. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux. Edward Burns, veterano del 507° reggimento di fanteria paracadutista. I tedeschi ci attaccarono con un reggimento di 2-3 mila uomini. L'attacco tedesco è mal organizzato e scoordinato e i parà infliggono pesanti perdite. Durante la tregua, alcuni fedeli decidono di lasciare il villaggio, ma si trovano di fronte a una bruttissima realtà di guerra. I tedeschi li obbligano ad aiutarli a caricare i loro morti e feriti sui camion. Anche se gli americani hanno respinto il primo assalto, i tedeschi non si danno per vinti. Il secondo round sta per cominciare. Martin Morgan, autore di Down to Earth. Subito dopo il primo assalto, una seconda ondata di fanteria minacciò i fianchi del perimetro. Questi soldati arrivarono così velocemente che aprirono una breccia. Tuttavia, il capitano Brummett riuscì a concentrare i suoi soldati e il fronte resistette. Come dopo una tempesta, alla fine del secondo attacco a Graigne, torna la tranquillità. Il maggiore Johnson approfitta della calma per avvicinare gli avamposti al paese. Aspettandosi un attacco tedesco ancora più potente, il maggiore fa allontanare tutti i civili dal centro del paese. Intanto gli osservatori sulle torrette lanciano l'allarme. Hanno visto i tedeschi montare dei pezzi di artiglieria pesante. Il tenente Pip Reed, che ha organizzato la difesa del paese, dice agli osservatori di abbandonare la postazione, ma i soldati insistono per restare. Tentano di puntare i mortai contro i cannoni tedeschi, ma sono fuori portata. Non c'è più tempo. I tedeschi aprono il fuoco contro la chiesa. Il maggiore Johnson è una delle prime vittime quando un proiettile da 88 mm distrugge la sede del comando. Dopo aver indebolito la difesa con i mortai, 2000 soldati tedeschi puntano verso il paese. Senza il posto d'osservazione, gli americani non possono puntare i mortai a lungo raggio. La battaglia diventa confusa con il buio. Entrambi gli schieramenti sparano alla cieca l'uno contro l'altro. Il numero di perdite tra i parà inizia a salire. Per 6 giorni i cittadini francesi e un gruppo di paracadutisti americani hanno impedito al nemico di riconquistare Graigne. Ma il crescente numero di soldati tedeschi e la scarsezza di munizioni degli americani inizia a fare la differenza. Ancora Martin Morgan. Dopo la morte del maggiore Johnson, il comando passò al capitano Dave Brummett, l'uomo che si era opposto all'idea di rimanere a Graigne. Il capitano Brummett ordina la ritirata. Sono travolti così in fretta che i parà non hanno altra scelta che scappare per non essere uccisi. Il capitano Soufian decide di restare in paese con i feriti, sperando in un onesto trattamento da prigioniero di guerra. Per un giorno intero i Parà hanno tenuto testa a 2.000 soldati tedeschi, uccidendone 500 circa e ferendone molti di più. Chi resta dei 182 Parà americani tenta di allontanarsi dal villaggio di notte. La battaglia per Graigna è finita. Ma per i tedeschi il massacro è appena cominciato. Ancora Edward Burns. Dovevamo uscire dalla città e ci dissero: ognuno badi a se stesso. Il tenente Fred Norton riesce a salvare 23 uomini avanzando in direzione sud-est per tutta la notte. All'alba, Odette Rigaud scorge un americano in fuga e gli offre il suo aiuto. Anche sua sorella Mart trova alcuni Parà in fuga. Mart e Odette non vogliono dire ai genitori cosa stanno facendo. Per due giorni continuano ad arrivare alla fattoria Rigaud altri americani. Alla fine si contano 21 Parà, tutti appartenenti al 507° reggimento. Per paura che i tedeschi osservino la fattoria, le ragazze riempiono dei secchi di cibo e, fingendo di svolgere faccende quotidiane, li portano ai soldati. Gli americani devono stare attenti a non fare alcun rumore. Devono parlare il meno possibile. Nel fienile, il tempo sembra non passare mai. Il 12 giugno il 101° reggimento aviotrasportato conquista Carentin. Se i 2.000 soldati tedeschi non fossero stati fermati a Graigne, la battaglia di Carentin sarebbe stata molto più lunga e cruenta. Il 15 giugno due tedeschi si fermano alla fattoria. I due tedeschi andarono nel fienile, diedero un calcio alla porta e cercarono al piano terra. E proprio quando stavano per salire al piano superiore, si girarono e andarono via. Tutti concordano che la cosa migliore da fare per gli americani sia tentare di raggiungere Carentin. Il signor Rigaud trova una barca con cui i soldati possono attraversare la palude. Dopo aver aiutato oltre 70 Parà americani a scappare, i Rigaud li salutano. Purtroppo a Graigne non tutti sono così fortunati. Dopo aver conquistato il paese, un gruppo di SS si presenta nel presbiterio della chiesa. Sanno che la chiesa è stata di grande aiuto per gli americani. I tedeschi ammazzano padre Le Blestier e padre Labarchon. E non risparmiano neanche le perpetue. Gli americani feriti ricevono lo stesso trattamento. I tedeschi irrompono nel pronto soccorso improvvisato in chiesa e portano fuori i feriti e il capitano Sofian. Un altro gruppo di Parà feriti viene condotto fuori dal paese. I tedeschi gli ordinano di scavare una buca. Poi sparano un colpo in testa a ognuno di loro. I soldati tedeschi interrogano 44 abitanti di Graigne sospettati di tradimento. Minacciano di giustiziarli se non fanno i nomi di tutti i cittadini che hanno aiutato gli americani. Le loro vite vengono risparmiate perché un ufficiale tedesco crede sia già stato versato troppo sangue. Alla fine, nessuno di loro viene ucciso. Il giorno dopo i tedeschi saccheggiano Graigne e incendiano la chiesa. Il fuoco dilaga a ovest del paese. Su 200 edifici, solo due non subiscono danni. Quando il mese seguente le forze alleate liberano la zona, un'unità addetta alla registrazione dei morti viene mandata a Graigne e nel vicino villaggio di Emavea per recuperare i corpi delle vittime del massacro. L'esumazione di Emavea viene filmata per fornire una testimonianza ai processi per crimini di guerra. 20 parà sono stati giustiziati a Graigne e 7 a Emavea. In tutto, 32 parà hanno perso la vita a Graigne. Ancora Martin Morgan. L'arma più potente che avevano i parà non era tanto il mortaio 88 mm o la mitragliatrice calibro 30. Era la promessa di libertà. Quando il 6 giugno arrivarono al paese, erano stremati. La gente di Graigne li accolse e diede ai loro liberatori tutto ciò che avevano. Cure mediche, consigli, cibo, protezione. I parà americani, i preti e le perpetue della Chiesa non sono le uniche vittime di Graigne. Altri 28 civili muoiono durante la battaglia. Finita la guerra, le rovine della Chiesa diventano un monumento alla memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà. Nel 1986 Marthe e Odette partecipano a una cerimonia con i veterani del 507° Reggimento. Con altri 9 compaesani ricevono il premio Distinguished Civilian Service, l'onore più grande che gli Stati Uniti riconoscano a un civile. Colonnello Frank Norton, veterano del 507° Reggimento. Apprezziamo molto il valore e i sacrifici che fecero per noi e ovviamente per il loro paese. Erano e restano persone fantastiche. Oltre al riconoscimento del loro coraggio e ai ricordi della battaglia di Graigne, Marthe e Odette Rigaud possiedono un'altra cosa. La seta che hanno raccolto nelle paludi è stata usata bene. I paracadute che hanno accompagnato i soldati nella loro discesa attraverso il fuoco nemico nel D-Day sono diventati prima il vestito della comunione di Marthe e poi, finita la guerra, l'abito da sposa di Odette. Forse è questo il memoriale più bello che resta al 507° Reggimento. Prima di chiudere, vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel lunedì 11 maggio alle 16.05. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Vittoria Mussini. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.